redigio.it e la storia continua. I festeggiamenti per i 100 anni della parrocchia di San Domenico. Da un oratorio del 1709 all'attuale chiesa con facciata lombardo-romanica. C'era una volta, nella contrada del Mugiato, che si estendeva lungo l'attuale Corso Garibaldi, una cappellina denominata Oratorio del Salvatore, sorta come segno di devozione e ricorrenza, forse per una grazia ricevuta. Inizia così il racconto della nascita dell'antica parrocchia di San Domenico Legnano. Circa 2 secoli di storia ne contraddistinguono l'albero genealogico, da cappella votiva a oratorio, fino alla realizzazione dell'attuale moderno complesso sacro. Era infatti il 1709, l'anno in cui Pietro e Giacomo Oldrini, dopo continue furibonde lite con un orto di loro proprietà, colsero da una violenta grandinata distruttrice il segno divino di una pace da fare. I due fratelli decisero così di donare il terreno alla Confraternita del Santo Rosario, con l'obbligo di edificare un oratorio, in onore di San Domenico Guzman, e di celebrarvi messe in suffragio. Dell'antico oratorio del Salvatore resta tuttora inglobata nella costruzione della casa parrocchiale, a destra della facciata della chiesa, la volta del campanile, con la piccola campana che per oltre un secolo aveva richiamato alle funzioni religiose i fedeli del rione. La cappellina, che restò tale fino al 1863, quando per necessità di culto degli abitanti fu ampliata e ristrutturata per iniziativa con un aiuto finanziario di Gerolamo Colombo, divenendo così una vera e propria chiesina, che assunse la nuova denominazione di Oratorio di San Domenico e dove vi si officiarono le messe fino dal 1895. In quell'anno il cappellano Don Emanuele Cattaneo si rese conto che lo sviluppo del rione esigeva di edificare un più ampio edificio per il culto. Il sacerdote, vista la situazione e il pericolo di una repentina demolizione del vecchio oratorio per farvi sorgere una conceria di siro dell'acqua, affrettò le pratiche per la costruzione della nuova chiesa. Beh, così, grazie a una sottoscrizione tra le famiglie nobili, i borghi, clerici e dell'acqua, e i contradaioli del borgo, a sorpresa, con un colpo di mano, Don Emanuele riuscì a organizzare il 16 aprile del 1900 la cerimonia della posa della prima pietra. Il progetto della futura chiesa era stato affidato al parroco architetto Don Enrico Locatelli, che 4 anni dopo firmerà sempre a Legnano la chiesa dei Santi Martiri Annauniani. Ma non tutto e non subito poté essere fatto come si deve. In primo tempo, per esigenze economiche, la chiesa fu coperta con un tetto provvisorio, che solo nel novembre del 1904 fu sostituito con la grandiosa cupola ottagonale, scandita da grandi finestre e bifore. La nuova chiesa di San Domenico fu eretta a parrocchia il 3 gennaio del 1907 con decreto del cardinale Andrea Ferrari, arcivescovo di Milano, e dallo stesso consacrata un anno dopo, esattamente il 30 marzo del 1908. Per il campanile si dovette aspettare oltre 20 anni. Era infatti l'anno 1924 quando un gruppo di operai iniziò a mettere pietra su pietra per elevare a 40 metri la torre campanaria rinascimentale. uno stile che si discostava da quello della chiesa, così come il rivestimento dal prevalente color roseo e si differenziava dal resto della decorazione del tempio. Infatti, lo stile voluto da Don Locatelli era ispirato all'architettura romano-bizantina, così come la primitiva facciata, rimaneggiata nel 1925 in stile lombardo-romanico, con elementi di marmo travertino e scandita da colonne e grandi statue dei simboli degli evangelisti: il leone per San Marco, l'angelo per San Matteo, il bue per San Luca e l'aquila per San Giovanni. L'attuale facciata in stile neogotico fu disegnata dall'architetto Pier Giulio Magistretti. Ed eccoci ai parroci. A fare da cordone ombelicale tra la messa in forma della cappellina dedicata al Salvatore alla chiesetta di San Domenico, per poi arrivare alla grande opera architettonica dei giorni nostri, è stata la fede delle famiglie che allora gravitavano attorno alla comunità religiosa e di quelle che ora partecipano alla vita della parrocchia e dei sacerdoti che con impegno ed entusiasmo hanno amministrato questa casa di Dio. Quattro i parroci che hanno reso servizio in questa parrocchia: Don Emanuele Cattaneo 1908-1952, Don Albino Colombo 1953-87, Don Paolo Citterio 1987-96 e l'attuale Don Paolo Banfi, che iniziò a operare nel 1996 e che si trovò protagonista del 90° anniversario nel 1998 e oggi di un secolo di storia. I festeggiamenti per il centenario. Molti gli incontri di catechesi, le mostre e altri eventi per ricordare un secolo di vita della parrocchia di San Domenico, a cominciare da quelli che si sono già svolti, prima fra tutti la messa del centenario, officiata domenica 30 marzo 2008 dai sacerdoti di San Domenico e presieduta da Monsignor Antonio Cocco Palmerio. Gli altri eventi: le conferenze catechesi tenute a gennaio dal professore di teologia Vergottini e dall'associazione Cardinal Ferrari, lo spettacolo teatrale Una tonnellata di soldi, presentato dalla compagnia Anni 90 a febbraio, e il concerto Meditazione per organo e violino in attesa della risurrezione dei maestri Tullia Pedersoli e Davide Belosio, tenuto a marzo. In aprile e a maggio avranno invece luogo le manifestazioni Le contrade si incontrano, con la partecipazione della fanfara dei bersaglieri e organo e trombe in concerto dalla formazione musicale Amadeus. Un capitolo a parte del programma celebrativo è dedicato alle opere d'arte e di storia conservate tra le mura della chiesa. Mostre dedicate agli evangelisti, agli apostoli, ai profeti, dei pulpiti lignei, e quest'ultimi tolti dalle proprie lunette e collocati in risalto in uno spazio espositivo alla sinistra dell'altare. Sono stati esposti pure i progetti e i disegni realizzati sul finire degli anni venti per il rifacimento della facciata del tempio, mentre prossimamente saranno messi in mostra alcuni documenti e fotografie sul vecchio San Domenico e i disegni di come i bambini vedono San Domenico. La chiesa ospita inoltre gli Angeli, due importanti statue realizzate dallo scultore lombardo Ugo Riva, e per il centenario sono state stampate tre cartoline a tiratura limitata, 500 pezzi, sulla parrocchia, firmate da Pietro Pinnarò. Il nuovo contesto nel centenario. In occasione del centenario sono state restaurate varie opere in dotazione alla chiesa e di altre ancora se ne attende il risultato. È stato completamente ripulito il paliotto in argento e bronzo dorato raffigurante al centro la cena di Emmaus e ai lati i simboli della passione di Gesù, scala, chiodi. Il paliotto avvolge ora l'altare centrale, mentre precedentemente era posto nella cappella della Beata Vergine Addolorata. Restaurate anche le quattro tele settecentesche della navata centrale, realizzate da maestri lombardi, ignoti e raffiguranti l'Annunciazione, l'Assunzione di Maria, la Peccatrice, Gesù servito dagli angeli dopo le tentazioni di Satana. Sono stati interessati ai lavori di restauro, infine, il presbiterio, la cupola centrale ottagonale e a sinistra il transetto della Madonna del Carmelo. 100 anni sono tanti anche per la parrocchia di San Domenico, nata in un contesto di povertà e semplicità, prettamente operaio, che manifestava alle sue spalle il profilo spezzato dei capannoni del cotonificio Cantoni. Solo, in linea, niente di più, al suo posto, un secolo dopo, è possibile vedere lucenti palazzi con eleganti rifiniture degli appartamenti innalzati al posto dei tuguri di fine Ottocento. Se una comunità è specchio dei suoi abitanti, allora San Domenico sta diventando la comunità dell'elite legnanese, con i nuovi loft, centinaia di famiglie abbienti entreranno a far parte della parrocchia. E per essere il parroco Don Paolo Banfi, il coadiutore Don Luca Romanò e l'aiutante Don Fabio Viscardi hanno già in serbo eventi e manifestazioni di accoglienza. L'unico rammarico in questo piccolo giubileo domestico resta, per San Domenico, non essere riusciti a trovare nella comunità legnanese la capacità di ascolto. Bastava fare indietreggiare di qualche metro più in là la nuova strada e i palazzi. Speriamo allora che qualche omelia riesca a entrare da finestre e balconi estremamente a ridosso della chiesa.